verso l'equilibrio del mare dei tuoi no. Tu giochi senza regole. Questo io ormai lo so. Camminiamo stretti sopra un filo, in un discorso che poi sembra chiaro. Mi hai lasciato il cuore tuo nel frigo, l'hai lasciato a terra o sopra un prato. Mi domandi se il destino è un gioco, se si può amare poi tutto d'un fiato. Ma avevo perso l'intenzione, sai. Lasciami avevo perso l'intenzione, sai. Ancora su quel filo, distanti ormai.